Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera da Maurizio Melis. Sul tema del riciclo e dell'economia circolare si consuma a volte un piccolo malinteso, cioè che tutti i materiali possano essere, diciamo così, riciclati all'infinito. Questo in effetti è vero solo per pochissimi materiali come l'alluminio, che nel processo di riciclo di fatto non subiscono modificazioni. Da una vecchia lattina d'alluminio di conseguenza si può ricavare a tutti gli effetti una nuova lattina di alluminio identica alla precedente. Ma se parliamo di materiali come le plastiche, le cose vanno diversamente. Oggi gran parte della plastica riciclata è di qualità nettamente inferiore a quella vergine e non può essere usata per le stesse applicazioni. Inoltre, il processo di riciclo a sua volta produce scarti che non sono riciclabili. Nel complesso, quindi, non si può parlare strettamente di economia circolare. Tuttavia, riciclare anche le materie plastiche con una efficacia vicina al 100% non è impossibile. Lo dimostra quanto realizzato da Werner Emmerz, che è una multinazionale tedesca, un migliaio di dipendenti, specializzata nei prodotti detergenti destinati all'uso professionale, che ha messo a punto un processo innovativo ma anche una filiera che le permettono di distribuire i propri prodotti in flaconi in plastica. Più precisamente si tratta di HDPE ottenuti al 100% da altro HDPE riciclato, e a loro volta questi flaconi sono poi riciclabili quasi, diciamo così, all'infinito. Ce ne parla Karen Fantini, che è marketing manager di Werner Emmerz e che ha seguito in prima persona per l'Italia questo progetto. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Le stiamo anche un po' rovinando le vacanze, mi dispiace, ma insomma fa parte del lavoro anche questo. Senta, sì, io ho visto a un convegno qualche settimana fa uno di questi vostri flaconi di HDPE riciclato al 100%. Si presenta, diciamo, come un materiale traslucido in colore semitrasparente. Dove stava il problema per riuscire ad ottenere questo risultato e come lo avete risolto? Sì, questo è un flacone che abbiamo introdotto sul mercato da fine 2016, dopo diversi anni di ricerca e sviluppo. La difficoltà stava nell'andare a riciclare un materiale che è più raro e anche più complesso da trattare, appunto, come l'HDPE, che è un tipo di plastica adatta a contenere prodotti detergenti molto acidi o molto alcalini, quindi un tipo di plastica molto resistente, e andare ad ottenere un prodotto riciclato di alta qualità che avesse anche un ottimo grado di trasparenza, questo anche per garantire la sicurezza ai nostri utilizzatori, che devono originali. Vedere se c'è dentro qualcosa, che cosa c'è, eccetera eccetera. Ecco, dicevamo che però in linea di massima questo prima non si riusciva a fare, non perché l'HDPE in sé come molecola, diciamo così, non sia riciclabile, ma per altre ragioni. Ci spiega quali sono e come le avete risolte? Non si riusciva a farlo, la difficoltà che ancora c'è, ma che stiamo affrontando, è il tema della selezione. Quindi la cosa difficile è trovare il processo e la tecnologia giusta per poter selezionare i tipi di plastica che ci interessano. Nel nostro caso l'HDPE trasparente. Quindi c'è la raccolta della plastica domestica, mescola un sacco di tipi di plastiche diverse, questo è il problema. Se si mescolano tutte insieme, quando si ricicla viene fuori una specie di pastrocchio. Invece si riesce a risolvere il problema se riuscite a separare i vari tipi di plastica, a trattarli separatamente. Questo è un po' il concetto. Questo è stato fatto investendo in tecnologie e lavorando in partnership con altri soggetti. Con altri soggetti che fanno questo di lavoro, evidentemente. Esatto. E che utilizzano una tecnologia di infrarossi nuova che permette appunto la separazione dei vari tipi di plastica. Quindi questo è il tema, no? L'alluminio è riciclabile anche perché non lo mescoliamo col ferro o con qualche altro metallo. Se mescolassimo tutto, poi sarebbe molto difficile tornare indietro. Mentre con la plastica si fa esattamente questo. Esatto. Quello che ci tengo ad aggiungere è che di solito quando si cerca di riciclare questo tipo di materiale si aggiungono dei coloranti o degli additivi per nascondere, se c'è il grigiore, per nascondere delle imperfezioni. Questo la nostra azienda si rifiuta assolutamente di farlo, perché dobbiamo pensare al fatto che questi flaconi, una volta utilizzati, dovranno essere riciclati una seconda, una terza volta. Questo è possibile solo se il materiale non viene inquinato, diciamo, mettiamolo tra virgolette, dalle aziende stesse, ad esempio con degli inchiostri, perché viene fatta la serigrafia, o perché vengono mescolati vari tipi di plastiche insieme durante il processo produttivo. Oppure perché si aggiungono semplicemente dei coloranti, è molto facile metterli, è molto difficile poi toglierli. È molto difficile, impossibile toglierli. Certo, è impossibile. E quindi insomma il problema fondamentale, e questo è un po' il messaggio dell'economia circolare, non sta poi tanto nelle tecniche di riciclo quanto nei beni che produciamo, che devono essere pensati per essere riciclati. Senta, il prossimo step che cosa farete? Il prossimo step per noi sarà... lavorare ancora sull'etichettatura del prodotto. Il progetto a cui stiamo lavorando è la creazione di etichette lavabili facilmente ad una temperatura un po' più elevata e quindi non avere assolutamente nessun tipo di contaminazione della plastica. Va bene, grazie allora, grazie Karen Fantini. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento domani. Scoprite le tecnologie e le personalità del futuro su audiinnovative.it. Vi ha presentato Smart City.